bene, bene. Buongiorno a tutti e a tutti, anzi buon pomeriggio. 14 e un minuto primo, giovedì 26 febbraio del 2009. Sono le 14 appena scoccate. Eccoci per parlare di cinema con Visionari, il consueto appuntamento del giovedì dalle 14 alle 15. Quest'oggi siamo pienissimi di ospiti. E cominciamo subito con un film che sta per uscire in questo weekend, ne parleremo con il regista, ma aspettate un attimo. Comunque potete consultare la scaletta della trasmissione sul sito della radio, ossia ondarossa.info, dove troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite per quanto riguarda i film in sala di questo venerdì e poi i nostri suggerimenti sui film già in programmazione, e poi link per dare un'occhiata alle nostre recensioni, conferenze stampa, interviste, e poi la programmazione per quanto riguarda i film sul piccolo schermo in televisione la settimana dal giovedì 26 a mercoledì 4 marzo. Un attimo di pazienza e ci mettiamo subito in collegamento. qua Giuseppe Piccioni, ci sei? Eccoci qui. Ci sono, sono in viaggio e al cellulare, purtroppo il cellulare si sta scaricando. Allora, buongiorno, buongiorno. Per presentare Giulia non esce la sera, allora cominciamo dagli inizi, come è nato il progetto? Ma il progetto è nato strano periodo della mia vita in cui ho cominciato a frequentare una piscina e lì è stato il primo spunto per la storia, l'idea di ambientare una storia in una piscina, perché la piscina mi sembrava un luogo in cui curiosamente si sospende qualsiasi collegamento col mondo esterno, è un'attività fisica appunto che ci fa tagliare completamente i ponti con gli altri, no? Magari mentre si va a correre si può anche parlare o ascoltare musica, in piscina si nuota, si pensa ai gesti da fare, i pensieri si riconducono a queste serie di operazioni molto, molto, molto fisiche. C'è una sorta di isolamento completo. Sì, sì, allora da lì poi si è pensato con la mia sceneggiatrice di farne il luogo dove accade questo incontro. Ovviamente la storia non parla di questi aspetti che ho appena accennato, ma parla soprattutto dell'incontro tra due personaggi, uno scrittore che è interpretato da Valerio Mastandrea e mi parla Regolino, che è un insegnante di nuoto che ha un passato misterioso e che suscita appunto la curiosità di questo personaggio che è Guido Montani. Allora ti volevo chiedere subito, come mai la scelta di parlare di carcere, che è un luogo così poco frequentato dal nostro cinema? Ma mi sembrava, prima di tutto nel film c'è una scelta di ambienti che non sono trattati secondo gli aspetti appunto sociologici. Non è un film che parla dichiaratamente di carcere, ma parla di una persona che appunto in questo caso è Giulia che non esce la sera e che è una persona che appunto è in libertà vigilata, che ha una sua vita, che lavora, fa l'insegnante di nuoto e nello stesso tempo però nasconde un segreto, il motivo per cui è in carcere è che ha compiuto qualcosa che rende problematica la sua vita, no? La tiene in qualche modo in una dimensione che dove le possibilità sentimentali, affettive, l'idea stessa di avere in futuro sembrano non così possibili come per tutti gli altri. Quindi si tratta di due persone che per motivi opposti sono alle soglie, sulla soglia della vita, ma non riescono fino in fondo a viverla così come vorrebbero, anche se Giulia la vita l'ha spesa, cioè la vita l'ha vissuta anche con passione, con dei risvolti tragici, però l'ha vissuta fino in fondo e quindi Giulia è portatrice di qualcosa nell'universo. Ecco, io credo che nel carcere ci siano queste vite, no? Ci siano questi errori, c'è la dimensione di un destino che è tragico, però nello stesso tempo spesso nell'errore c'è qualcosa che comunque fa sì che la nostra attenzione si mescoli alla nostra compassione, al nostro interesse per queste persone. Un aspetto interessante che ho trovato nel film è che lei vive questa condizione di semilibertà come comunque una prosecuzione della detenzione all'interno del carcere, anche questa situazione esterna non ha poi alla fine quell'apertura, quella prospettiva che in teoria dovrebbe fornire a lei, no? Sì, questo fa parte del personaggio di Giulia. C'è anche una scena che è una scena chiave dove che adesso magari se racconto rovino anche un po' l'interesse la sorpresa, degli spettatori, certo. Che è il momento in cui lei deve entrare in questo carcere, c'è un momento in cui le sembra non sapere più se dover entrare dentro o dover uscirne fuori, no? Come se per lei fosse la stessa cosa. Infatti a un certo punto lei dice dentro o fuori per me è lo stesso, non mi sembra, solo in acqua sto bene, solo nell'acqua sto bene. Fare uscire per me non mi fa sentire meglio. Questo vuol dire qualcosa, vuol dire qualcosa che significa che lei si da un certo punto di vista non si perdona e quindi non cerca scuse, non accampa giustificazioni, non, e quindi la rende un personaggio unico, no? Quindi non riconducibile a un tema, a una problematica che riguarda inevitabilmente tutti. È un'eroina romantica, no? In questo senso c'è una parte di racconto, di romanzo sul personaggio di Giulia, no? Che va al di là della dimensione carceraria, sì. Credo che sia interessante questa cosa, che nel caso a me è capitato di andare a visitare questi luoghi e avere a che fare con persone che hanno compiuto scelte lo stesso così tragiche come quelle che ha compiuto Giulia, e di vedere in queste persone questo tentativo che loro fanno di ricostruirsi anche una vita sentimentale, affettiva, che non sempre è facile. Ecco, infatti volevo chiederti proprio se per la costruzione del suo ruolo vi eravate basati anche sulla conoscenza di persone che vivono una condizione analoga di semilibertà. Sì, noi abbiamo parlato con persone che hanno vissuto una condizione analoga a quella di Giulia, abbiamo visitato il carcere di Rebibbia, il carcere di Velletri, abbiamo parlato con detenuti in libertà vigilata, abbiamo parlato ovviamente con assistenti sociali, con giudici di sorveglianza e tutte le persone professionalmente che si occupano professionalmente della vita dei detenuti. Volevo chiederti anche, Giuseppe, per la scelta del cast, come è andata con Valerio Mastandrea, Lagolino e Sergio Bergamasco? Ma guarda, io sono particolarmente contento di questo cast per Valeria Golino, che è un'attrice con cui da tempo manifestavamo entrambi il desiderio di lavorare insieme, e con Valerio Mastandrea, che credo sia un attore maturato negli anni, che si sia affrancato sempre più da quella specie di casualità che era legata al suo mestiere di attore, perché poi Valerio sappiamo che inizia casualmente a essere un personaggio televisivo e poi ha scelto più o meno consapevolmente molto più tardi di essere un attore. Sonia Bergamasco, al contrario, che invece ha questo background molto forte, molto solido come attrice, che effettivamente viene dall'accademia e dal teatro. E poi però sono anche molto contento dei personaggi che noi definiamo erroneamente secondari, soprattutto dei due giovani, al di là di Piera degli Esposti e della sua presenza sempre vitale, no? Delle intermittenze quasi di una partitura musicale, quella di Piera. Sì. E poi ci sono Sonia Bergamo, Antonia Viscova, che è la ballerina di lap dance, Sasha Vulicevic, Fabio Camilli, Sara Tossi, insomma tanti, e soprattutto due giovani adolescenti, la Chiara Nicola, ci sono anche due giovani adolescenti che sono, credo, una piacevole sorpresa. Domiziana Cardinali e il giovane Jacopo Domenicucci. Senti, che dal punto di vista produttivo che vita ha avuto il film? Che percorso ha seguito? Adesso entro in un tunnel, quindi rischiamo di cadere. Mi senti ancora? Sì, ancora ti sento. Allora, noi abbiamo un film prodotto da Lionello Cerri, della Lumière, un produttore di Milano con cui ho lavorato già da molto tempo. Mi seguite ancora? Sì. Poi con... coprodotto da Rai Cinema, distribuito da 01, un film a un costo di 4.700.000, un film che ambisce ad avere non risultati non paragonabili a quelli dei film americani, però sicuramente ad avere una sua incisività nell'uscita in sala. C'è un discreto, è un film che credo su cui c'è anche intorno al film una grande fiducia, perché insomma c'è una certa soddisfazione sulle possibilità che il film ha di raggiungere insomma un pubblico importante, ecco. Speriamo che sia così, perché è importante che nel cinema italiano ci sia la possibilità sempre più di raccontare storie che non siano esclusivamente... Mi sentite ancora? Sì, sì. Ah, ecco, che non siano esclusivamente legate alle uscite natalizie, ecco. Sì, tanto sì, per sì. Intenderci, con tutto il rispetto di, certo. Dei film. In quante copie, Giuseppe? Usciamo con 180 copie. Beh, insomma, numero abbastanza consistente. Sì, abbastanza buono per i tempi in cui viviamo, diciamo. Allora, in bocca al lupo, un abbraccio e a presto. Mi raccomando, Giulia non esce la sera. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao Giuseppe, ciao. Era il regista Giuseppe Piccioni, andiamo avanti. Vi ricordo la scaletta sul sito www.ondarossa.info, oppure potete inviarci un fax allo 06 44 63 616, oppure una mail visionari@ondarossa.it. Abbiamo problemi con la linea, speriamo di risolvere al volo. Simona, ciao, come va? Tutti bene, bene. In motorino. Ovunque in motorino, non ho sentito il telefono. Allora, questa domenica parte una rassegna al Volturno Occupato intitolata La Mala Distribución, vogliamo... Sì. Pronunciarlo così, anche se è un connubio tra lo spagnolo e l'inglese, no, no. Sì, qualcuno si è anche trovato un francesismo in realtà, per cui no. Ognuno la pronuncia come vuole, perché non c'è assolutamente una lingua. Allora, via Volturno 37, ogni domenica a partire dal 1° marzo, senza scadenze, per cui andrà avanti per un certo periodo. Come è nata, come si è sviluppata? Innanzitutto il Volturno era un cinema di proprietà della Cecchi Cori, di una delle società che poi appunto fallite, per cui apparteneva al circuito Medusa e ovviamente appunto a parte aver avuto insomma varie storie il Volturno proprio, fondamentalmente l'idea è nata da quella di utilizzarlo proprio come un cinema, però appunto proiettando tutti quei film che in realtà nella grande distribuzione poi spesso non trovano spazio o se lo trovano insomma lo trovano sempre per pochissimo tempo e quindi da lì è nata un po' appunto il Volturno Occupato di decidere di fare una distribuzione diciamo cattiva nel senso di mala dallo spagnolo e tutti quei film anche un po' incazzata nel senso di tutti quei film che poi alla fine appunto non trovano abbastanza spazi e cominceremo da questa domenica. Ma è uno dei grandi problemi del cinema italiano, non solo la produzione ma poi la distribuzione, ossia farli vedere i film. Sì. Infatti la distribuzione è un punto chiave, poi il Volturno diciamo si sta un po' affermando come uno spazio culturale diciamo che è eterogeneo, perché poi ci sono tante compagnie teatrali, artisti, videomaker, eccetera eccetera, per cui diciamo la domenica diventerà un po' un appuntamento fisso, con l'idea anche di cercare un po' di ragionare sulla distribuzione in senso, insomma, molto aperto e generale, anche perché riguarda moltissimo non solo i film ma anche la musica e tante altre cose, insomma. Senti, ti ho interrotto, stavi dicendo questa domenica si comincia? Ah, questa domenica si comincia con un documentario che in realtà appunto non è mai stato distribuito, ha girato per festival, come molti insomma sono costretti a fare, insomma, per farlo vedere un po', e sarà il documentario di Aurelio Grimaldi, si chiama Se sarà lui se sarà bellissimo, sul caso Moro, e diciamo che ogni domenica ci sarà il regista a presentare e soprattutto a parlare della vita del film, appunto, da partire dalla sua realizzazione a finire insomma la sua distribuzione. E per ogni domenica ci saranno, insomma, c'è un programma, adesso sono 5 domeniche di marzo, domenica prossima ci sarà invece l'8 marzo L'ora d'amore, che è un documentario girato a carcere di Bibbia, che è stato presentato anche al Festival di Roma. Sì, ha vinto, credo abbia vinto il Festival, insomma, di Roma, quindi ha avuto anche un discreto successo, e niente, ci saranno sia gli autori che sia una dei programmi, insomma, La Scarceranda, insomma, tutta la trasmissione che parla di carcere interna della Rionda Rossa, e insomma chi lavora sia nell'ambito video sia nell'ambito del carcere. E poi insomma continueremo domenica dopo, ci sarà Pater Familias di Francesco Paterno, poi ci sarà Sangue di Libero De Rienzo, e poi ci sarà Ospi di Matteo Garrone, che è uno dei primi film che lui ha girato, in cui invece verrà uno degli attori che ha girato questo film, che appunto sono anche film italiani che magari oramai non si vedono tanto più, però che comunque hanno un loro perché, insomma, all'interno della mala distribution o distribution. Bene, cercheremo di seguirla da vicino, nel senso di volta in volta potremmo anche avere ospiti o voi o i registi, insomma, come decidiamo di fare, insomma, vediamo un po'. Sì, anche perché i registi, diciamo, hanno anche molta voglia di parlare, sì, diciamo, sì, rispetto a questo. Sono sempre, diciamo, ben accetti. Simona, allora, in bocca al lupo per questo primo appuntamento, che è domenica, all'ora? Alle 9:30, con popcorn e, diciamo, aperitivo un pochino prima. L'ingresso libero, gratuito, ovviamente. Bene. Per cui, insomma, da domenica 1 marzo fino a domenica 29 marzo. 21:30, via Volturno 37. Perfetto. Un abbraccio. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Guido Michelone, direttore del secondo Vercelli Art Movie Festival. Grazie, buon pomeriggio. Come va? Benissimo. Benissimo, bene, bene. Allora, dal 26 febbraio al 1 marzo, parlaci un po' di questo festival, che io sinceramente è la prima volta che sento, nonostante sia la seconda edizione. Sì, ma innanzitutto sono contento perché questa mattinata alle 10 il locale, il Cinema Italia di Vercelli, si è riempito di centinaia di studenti, dalle medie all'università, perché votano un concorso internazionale di film sull'arte. Il VAM, così si chiama, vuol dire Vercelli Art Movie Festival, è un festival specializzato nel proiettare, nel proporre film sull'arte in collegamento con l'ARCA, che è un'istituzione museale che ospita soprattutto mostre della Peggy Guggenheim Foundation, sì, cioè i quadri che la grande Peggy Guggenheim, si dovrebbe dire, non Guggenheim, in effetti all'americana, raccolse durante la sua vita, soprattutto pittura moderna, cioè l'avanguardia, da Picasso fino a Rauschenberg. Quest'anno La mostra che finirà a metà marzo è su Pollock, la nuova pittura americana, cioè l'informale Election Painting, e noi abbiamo pensato così di omaggiare cinematograficamente questa corrente, trasmettendo ad esempio il film su Pollock di Ed Harris, oppure i film dell'epoca di Pollock, cioè dei grandi attori, diciamo informali, nuovi, giovani, come James Dean e Marlon Brando. Ecco, questa sì, è la prima sì. idea. Senti, il bilancio della prima edizione? Il bilancio era più che positivo. Bene. Un totale di 2000 persone in 4 giorni per una piccola città, a livello di pubblico è già molto sì. positivo, anche perché sono arrivati l'anno scorso, come quest'anno, film dal Messico, dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Sud Corea, da tutta Europa e da tutta Italia, film in concorso tra i più svariati, dai 3 minuti di sperimentazione al documentario sul fumettista Magnus, che l'anno scorso vinse appunto la prima edizione del concorso. Mm-hmm. Oh, dalla copiosità del materiale che citavi, mi sembra che sia un intreccio questo tra arte e cinema piuttosto vivace, però poco fruibile, specialmente al cinema, se pensiamo alle sale, insomma. Sì, perché se togli film, diciamo, hollywoodiani sui pittori, come può essere questo Pollock di Ed Harris, il resto è visibile nei musei e soprattutto videoarte, cioè il film d'artista. Che oramai non è più girato su pellicola ma su video, è qualcosa di sperimentale che non è nel grande circuito delle multisale, bensì, come dire, a cavallo dei musei, delle gallerie d'arte e di tutte queste istituzioni. Mm-hmm. Senti, quali sono le discipline artistiche più battute dal punto di vista delle pellicole che vi sono arrivate? Ma noi abbiamo voluto allargare i campi all'arte intesa a 360 gradi, quindi sì. non solo le arti tradizionali come pittura, scultura, architettura, ma anche fumetto, design, arredamento, moda, persino la danza. Ma direi che da un lato prevale ancora la pittura, magari una pittura astratta, sperimentale o avanguardista, ma c'è ad esempio anche molto spazio per i graffitisti, per i giovani che usano lo spray, o anche proprio per i fumetti o cartoonist, c'è di tutto, insomma. Mm-hmm. Oh, per saperne di più, avete riferimenti internet? Certo, siamo su Facebook, naturalmente, abbiamo un sito che è www.vanfest.it che aggiorniamo giornalmente, ci sono anche poi riferimenti a tanti link, nella nostra home page c'è anche un capitolo, si trova, dedicato all'edizione dello scorso anno, con tante foto, con i divi presenti, perché anche noi cerchiamo di strizzare l'occhio al popolare, al successo. L'anno scorso abbiamo premiato come arte dell'attore Kim Rossi Stewart, quest'anno premieremo la bellissima Anita Caprioli, forse non è conosciutissima come Sofia Loren, anche perché è molto più giovane, però a mio avviso è bravissima. Bene, bene. Allora, in bocca al lupo e spero di risentirti presto. Crepi il lupo, grazie mille. Ciao, ciao. Ciao. Ed era Guido Michelone, direttore della seconda edizione del VAM, Vercelli Art Movie Festival, in corso dal 26 febbraio al 1 marzo. Questa è Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15 sugli 87.900 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Proseguiamo con la nostra carrellata di ospiti. Giampaolo Luciani di Officina Film Club. Sì, buonasera, buon pomeriggio. Come stai? Bene, bene, grazie. Allora, con te parleremo di una rassegna che si intitola Generazioni a confronto. Al Cinema Farnese a partire da questa domenica 1 marzo fino al 26 aprile, dici sì. Un po' di cosa si tratta. Sì, sì, in realtà il titolo preciso sono costretto, tra virgolette, naturalmente a precisarlo, è Sguardi perso sul cinema trattino Generazione a confronto, sì. Questo perché la manifestazione è autofinanziata senza nessun tipo di contributo pubblico eccetera, e riusciamo a farlo perché c'è un interesse di questa situazione produttiva che è la Persol, del gruppo Luxottica, che già interviene sul cinema farnese e che da anni c'ha un interesse specifico sul cinema italiano. È molto semplice, si tratta di incontri vecchio stile, proprio come si usava negli anni 60 e 70, proiezione di un film con un dibattito a seguire. La particolarità è che sono la domenica mattina, l'ingresso è gratuito e spesso in questo schema, come dire, così semplice, è arricchito da un particolare, cioè vengono messi appunto a confronto due autori di cinema italiano, diversi per percorsi professionali, lavorativi e anche generazionali. Come avviene questa domenica 1 marzo, in cui il film presentato è Mimì Metallurgico, la regia è di Lina Wertheim-Müller, che sarà presente e si confronta sicuramente con un autore molto lontano da lei, non solo per età anagrafica ma anche per tipo di cinema realizzato, che è Pappi Corsicato. Sì. Oh, si tratta della seconda edizione, come è andata il primo anno? È andata inaspettatamente bene, dico inaspettatamente perché come dire, appunto, forse lo schema troppo semplice o il tipo di impostazione così tradizionale ci aveva fatto pensare che così fosse un po' vecchiotta come, come proposta. Invece la risposta c'è stata molto, sia a livello di pubblico che di stampa che ci ha seguito, ma soprattutto di qualità di risposta, cioè c'è un pubblico molto attento che ama rimanere a parlare con, ecco, c'è con gli autori presenti, quindi, ecco. Sì, proprio una cosa che ci ha molto colpito e che ci ha fatto capire come poi in questa città ci sia veramente fame di occasioni di incontro, di dibattito, anche di scontro, perché spesso questi appuntamenti si sono trasformati anche in riflessioni più ampie sulla politica, la morale, l'etica, lo stato del paese, quindi come poi è giusto che sia, perché poi il cinema, in particolare il cinema italiano classico, spinge e conforta a fare questi ragionamenti. Bene, il pubblico quindi soddisfatto, invece da parte degli autori immagino anche lì sia stata una sì, sì, noi quest'anno, come dire, abbiamo fatto un'anteprima domenica 15 con Marco Bellocchio e Saverio Costanzo, riprendiamo in pieno la programmazione con quattro appuntamenti questa domenica che viene, e poi proseguiamo l'8 marzo con Francesca Archibugi, il 15 con un film secco che pensiamo invece servirà molto a dibattere, che è La rabbia di Pasolini e Guareschi, il 22 ci abbiamo i fratelli Vanzina con Vacanze di Natale, e poi a seguire una serie di appuntamenti ancora in costruzione, ma insomma che rispettano lo schema che ti ho raccontato adesso. Sì, senti, per la scelta degli autori su cosa vi siete basati in particolare? Ma noi siamo, come dire, come Officina siamo un cineclub anche qui con un minimo di anzianità di servizio, operiamo dal 76. E quindi ci siamo basati, come dire, alcuni sono autori che abbiamo imparato a conoscere e frequentare e di cui abbiamo già sperimentato la grande disponibilità in questi anni, altri su, come dire, stimolati anche da quello che si produce e si fa in questo momento in Italia. Per fare un esempio, su questa domenica ci incuriosiva molto mettere a confronto appunto un autore come Corsicato con una regista come la Bertie Müller, che pur non essendosi frequentati sappiamo stimarsi reciprocamente. Altre volte dipende poi dalle disponibilità effettive, sì, degli autori, spesso sono impegnati con film nuovi in lavorazione, ma insomma finora non abbiamo mai avuto nessun problema, devo dire, con rapporto con autori sia giovani che un po' più avanti con gli anni, diciamo così. Senti, sul web è disponibile il programma? Penso proprio di sì, tra l'altro anche sul sito del Cinema Farnese, naturalmente, che ecco, questa è un'altra cosa un pochino forse da sottolineare, che la sala Farnese è una sala storica proprio, sì, diciamo, del cinema di qualità e di sé a Roma, molti ci si sono proprio formati nel corso dei decenni, ed è una sala che coraggiosamente, fuori da ogni tipo di circuito in questo momento a Roma, continua e rinverdisce questa sua tradizione storica. Questi appuntamenti domenicali, come dire, servono anche a irrobustire un po' il richiamo e lo spessore qualitativo proprio della sala in quanto tale. Quindi sì, sul sito del Cinema Farnese sicuramente, che poi è quello che ci interessava, insomma, che la gente potesse consultare proprio quello che era la sala in quanto tale, perché ci teniamo molto anche a il robustimento, come dicevo, dell'offerta di questa sala. Bene, allora, in bocca al lupo, grazie, Paolo, e ci sente prossimamente. Va bene, grazie, arrivederci. Un abbraccio. Paolo Luciani di Officina Film Club per la rassegna Generazioni a Confronto al Cinema Farnese dal 1 marzo al 26 aprile. Buon pomeriggio ad Enrico Nosei della Fondazione Cineteca Italiana. Salve. Come va? Bene, bene, tutto bene. Allora, per parlare della distribuzione che curerete di un film canadese intitolato Only. Allora, intanto come è nata la scelta? Ma la scelta è nata dalla visione del film al Festival di Roma, sì, all'ultimo Festival di Roma, dove il film è stato programmato nella sezione Alice nelle città, quindi con una, diciamo, destinazione di film per ragazzi, e in effetti certamente il film è adattissimo a ragazzi, diciamo, dalle scuole medie in su, però poi in realtà, essendo un film così bello, sensibile, delicato sull'adolescenza, io credo di poter dire con certezza che è adatto a un pubblico anche adulto, piace molto anche a un pubblico adulto. Ieri sera abbiamo fatto la prima qui a Milano in presenza della regista, che in realtà è uno dei due registi, del direttore della fotografia, e a parte che c'è stata molta gente che è venuta a vedere il film, la sala, insomma, è più che esaurita, ma poi insomma anche le reazioni sono state assolutamente entusiastiche, ed era tutto pubblico adulto, insomma, essendo una proiezione serale non si trattava di ragazzini o di bambini, molti giovani, universitari, molte persone anche più grandi, e tutti d'accordo nel ritenerlo davvero una piccola gemma in un panorama distributivo che purtroppo normalmente trascura o spesso trascura opere di questo genere. Oh, ecco, a questo proposito volevo chiederti com'è nata la vostra scelta e come poi si è sviluppata rispetto alla distribuzione di titoli fuori dal grosso circuito? Beh, ovviamente noi non facciamo di mestiere distributori, né potremmo farlo, quindi per noi non è possibile, ma neanche ci proviamo, insomma, ad arrivare a titoli per i quali ci dovremmo mettere in competizione con case di distribuzione che fanno quel lavoro e quindi hanno tutta un'altra struttura per farlo bene. Andiamo a pescare laddove ci sono ogni tanto questo genere di cinema un po' dimenticato, immeritatamente dimenticato. La nostra è una distribuzione per il circuito culturale, abbiamo preso i diritti per il circuito culturale, il che significa per il momento almeno, insomma, non sale di prima visione, però è anche vero che questi film poi mandati nelle sale di prima visione spesso rischiano di cadere nel vuoto. Mm-hmm. E rischiano invece o possono, hanno la possibilità di fare una carriera, un percorso diverso e molto migliore proprio se proposti in circuiti scolastici o circuiti di cineforum o circuiti, insomma, laddove si fa attenzione al cinema di qualità. Lì ci sono anche dei precedenti, come ad esempio un film italiano che è stato Rosso Malpelo di Pasquale Scimeca, che ha deciso il regista stesso di non provare neanche a essere distribuito nelle sale di prima visione, ma ha deciso di lavorare sul film, di accompagnarlo in giro, e alla fine ha fatto un numero impressionante di proiezioni e anche di spettatori, che non avrebbe fatto se il film fosse stato messo in distribuzione così, in modo un po' casuale, distratto, come spesso succede. Oh, se ricordo bene, questa distribuzione in questo caso riguarderà alcune zone della Lombardia, e rispetto ai cinema de sé che citavi prima, state creando in qualche modo rispetto a questo tipo di iniziativa un circuito? Allora, creare un circuito è molto difficile, sì. Un po' perché le sale stesse sono molto frammentate, poi ovviamente noi ci riferiamo alla Lombardia perché è il luogo nel quale conosciamo di più alcune realtà come quelle che si citavano, e quindi possiamo arrivarci più facilmente. Nulla vieta naturalmente che il film possa avere invece una vita e un percorso anche al di fuori dei confini lombardi, per non dire dei confini del nord Italia. Insomma, il film è a disposizione di chi intende programmarlo. Creare un circuito è sempre molto difficile, anche perché per creare un circuito vuol dire avere poi i contenuti con cui alimentarlo, e purtroppo non sempre capita di imbattersi in film dei quali uno è così convinto, diciamo pure così belli. Quando succede non sempre è facile o possibile acquisirne i diritti, e invece in questo caso la cosa funzionato molto bene anche per la sensibilità e l'intelligenza dei produttori, della regista, sì, certo. Eccetera eccetera. Quindi il circuito molto difficile da creare, esiste già del resto, diciamo, si sa già che ci sono delle realtà, appunto per noi le più note sono quelle sul territorio lombardo, semplicemente perché noi siamo in Lombardia, che sono sensibili a un discorso di questo tipo, e quindi sappiamo un po' fin da subito a chi ci si può rivolgere. È chiaro che l'ambizione è quella di allargare il giro e poterci poi rivolgere a un numero sempre maggiore di sale, di gestori diciamo che hanno voglia di farsi coinvolgere. Mm-hmm. Enrico, a questo punto in bocca al lupo per questa distribuzione, e magari ci sentiremo per le prossime iniziative. Noi siamo qui e molto contenti di collaborare per questo genere di cose. Bene, bene. Un abbraccio e a presto. Grazie. Ciao. Enrico Nosei della Fondazione Cineteca Italiana, con cui abbiamo parlato della distribuzione del film canadese Only. pomeriggio, Olivia Magnani. Eccoci. Ciao, buonasera. Con te per parlare del film Quell'estate felice, uscito lo scorso fine settimana. Intanto ti chiedo come è andato questi primi giorni, come sono andati? Ma so che lo stanno dando in qualche sala in giro per l'Italia e insomma è un piccolo film, è uscito in poche copie, ma mi pare che stia andando. Mm-hmm. Oh, facciamo allora un passo indietro rispetto al tuo lavoro cinematografico. Come è nato, come si è sviluppato il tuo lavoro d'attrice per il grande schermo? Dunque, ma io ho iniziato facendo teatro, poi ho fatto il film di Paolo Sorrentino, sì, Le conseguenze dell'amore, e poi ho fatto questo film di Beppe Cino, che ho scelto perché si ispirava ad un romanzo meraviglioso di uno scrittore siciliano che è Gesualdo Bufalino, e soprattutto anche perché questo personaggio femminile che mi è stato proposto è un personaggio assolutamente molto stimolante e eccitante per un'attrice, perché insomma un ruolo direi da protagonista e di una donna tirannica, di una donna terribile che usa tutte le situazioni per raggiungere i propri obiettivi di libertà, diciamo. Mm-hmm. E poi ho fatto anche un film invece di un giovane regista che si chiama Un'opera prima, di Valerio D'Annunzio, con Roberto Erlizka come protagonista, e poi sono stata un po' a Parigi dove ho fatto un piccolo film là, e poi insomma ho fatto diverse cose per il cinema che adesso stanno uscendo. Bene. E bene. Com'è stato questo passaggio dal teatro al cinema? E poi ti volevo chiedere anche se comunque uno non sta precludendo l'altro, insomma, se stai continuando anche l'attività teatrale. Guarda, io ho molto molto un grande desiderio che sento sempre più impellente di tornare a far teatro. Bene. Perché il teatro è molto più sacro, sì, e dà una disciplina e un metodo che non trovo nel cinema. Mm-hmm. Perché il cinema è lavorare nel cinema è un po' essere nomadi, e va benissimo, però sicuramente la mia, insomma, il mio desiderio è quello di fare e il cinema e il teatro, e proprio adesso sono stata a Parigi a studiare per un po' con questa grandissima regista che è l'Ariane Nouchkine del Teatro du Soleil, e ho capito che voglio tornare a fare teatro. Bene, bene, sono contento. Per me, sei contento per me? Certo. Anch'io sono contenta per me. Dimmi tutto. Allora, prossima domanda. Torniamo al film Quell'estate felice. Allora, il progetto era partito. Visto? Sì, l'ho visto. Okay. All'anteprima la scorsa settimana. Va bene. Se no, di cosa stavamo parlando? Non lo so. Dimmi tutto. Allora, è un progetto che nasce un po' da lontano, nel senso, erano i primi anni 90. Inizialmente doveva essere un prodotto televisivo. Mm. E poi, insomma, Beppe Cino ha difeso la sceneggiatura da quello che avrebbe rischiato di diventare, e poi è saltato questo progetto. Poi è diventato film, inizialmente col titolo della protagonista, col nome Maria. Ma sì, perché dunque questo film, c'è da dire che pur essendo un film che ha avuto un finanziamento statale, raccontiamo le magagne, ha avuto delle difficoltà a trovare una distribuzione, come sì, spesso capita in questo paese, certo. Cioè che i soldi dei cittadini vengono usati per produrre cinema, che però poi i film non escono. Allora finalmente appunto invece ce l'ha fatta, e quindi nel percorso di piccoli festival dove comunque siamo stati, e nel lungo percorso della vita di questo film, il regista ha cambiato un paio di volte idea sul titolo, per cui prima si chiamava, sì, inizialmente a un certo punto si chiamava con il nome del personaggio, insomma, che interpreto io, Maria Venera, e poi invece sono tornati a Quell'estate felice, perché comunque è un film corale, sì. È anche un film maschile, però c'è questo ruolo femminile invece molto bello, e questo l'ho già detto. Ecco, rispetto, dicevi, dell'iter festivaliero, insomma è stato anche premiato sia per la regia che per la tua interpretazione. Diciamolo, dai. Allora, il romanzo di partenza, ossia Argo il cieco di ancora Bufalino. Ancora un altro titolo, sì. Argo il cieco di Bufalino. Sì. Ha portato Beppe Cino delle sostanziali modifiche, soprattutto nei personaggi e nel tuo in particolare, ossia ne fa una donna, una giovane donna che in qualche modo in una Sicilia anni 50 si autodetermina, ha una relazione con il cugino che è un poco di buono, abortisce, fa una scenata pubblica in cui comunque rende pubblica questa relazione segreta, e alla fine se ne va all'estero, insomma. Tu dicevi prima una donna terribile, che però insomma ha 25 anni e sconta anche una cultura patriarcale e maschilista, per cui chiaramente dice voglio l'uomo o padrone o servitore, però insomma in qualche modo è più liberatoria che negativa come persona. No, ma io quando dico terribile lo dico nel senso che comunque è una donna molto ambiziosa, che pensa solo a se stessa, che usa tutti gli uomini, visto che è una storia poi d'amore, di memoria e di giovinezza, in cui si raccontano tutti insomma una serie di anche di storie d'amore, effettivamente lei le usa, è terribile in quel senso. Poi no, mi è molto simpatica anche a me, è un personaggio sicuramente che si emancipa, però non è che è proprio Cino che ha fatto delle modifiche, l'unica modifica che ha fatto è quella di scegliere di farla abortire, ma nel romanzo nasce così, cioè come un personaggio comunque indecifrabile, nessuno la conosce, conosce bene la sua storia, perché lei sta scappando da una serie di situazioni, e terribile nel senso che appunto passa come un carro armato sopra chiunque. Soprattutto gli innamorati che aspirerebbero, sì, insomma. Ecco, diciamo, li castiga. Bene, fra poco invece parleremo di un'altra siciliana terribile. Per il film La siciliana ribelle di Marco. Certo, anche lei è terribile. Eh sì. Di Marco Amenta, che uscirà tra l'altro, ecco, questo fine settimana. Olivia, per sapere dei tuoi prossimi lavori. Chi vuole saperne di più? Dunque dovrebbe uscire questo film che dicevo con Roberto Erlizka, Galatea Ranzi, Agnese Nano di Valerio D'Annunzio il 20 marzo, sì. E per ora direi che è abbastanza. Va bene. E poi ci sentiamo. Va bene, ci sentiremo, spero. Ok. Molte grazie. Un abbraccio, a presto. Ciao, buona giornata. Ciao. Avevamo previsto un collegamento anche con Marco Amenta per parlare della Siciliana Ribelle, il suo film che uscirà in questo weekend, venerdì, cioè domani, ma aveva una conferenza stampa a Palermo e non riusciamo a contattarlo, quindi purtroppo chissà, magari ne parleremo con lui la prossima settimana. Per quanto ci riguarda, ci sentiamo giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Qualsiasi informazione potete averla consultando il sito www.ondarossa.info, dove troverete gli ospiti di questa puntata, poi le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film ancora in programmazione e poi per i link per dare un'occhiata anche alle nostre recensioni, interviste, conferenze stampa e i nostri suggerimenti per quanto riguarda i film in programmazione sul piccolo schermo per questa settimana. Quindi a giovedì prossimo, sempre alle 14, 87.900 la modulazione di frequenza. Per contattarci il fax 06 44 63 616, la mail visionari@ondarossa.it. Buon proseguimento!